My Secret Dressing Room è una piattaforma online che mette in contatto chi ha a disposizione abiti e accessori da noleggiare con chi li vuole indossare, magari per un'occasione speciale, senza essere costretta ad acquistarli. Ritiro e consegna, servizio fotografico, assicurazione sui capi, feedback in tempo reale. Questi i punti forti della startup che guarda già all'estero. Ci ha raccontato tutto Giampiero Morbello, presidente e fondatore di My Secret Dressing Room. È una comunità che mette in contatto attraverso un'applicazione, mette in contatto delle donne che hanno a disposizione un guardaroba sia contenuto ma anche abbastanza vasto e che vogliono mettere questo a disposizione di altre donne che lo vogliono affittare per un weekend, per una settimana, per un mese. Coloro che mettono a disposizione i propri vestiti, noi le chiamiamo secret stylist, e coloro che vogliono affittare, che possono affittare questi vestiti, le chiamiamo secret fan. Nel momento in cui una donna vuole diventare secret stylist, ci contatta, noi mandiamo un fotografo, oppure può andare in uno studio fotografico di moda professionale, facciamo le foto di questi vestiti, vengono caricate, vengono messi dei commenti. Il tutto funziona che io come secret fan scelgo un vestito per una serata o qualunque fashion item, lo prenoto, la secret stylist sta a disposizione 24 ore per confermare l'accettazione di questo noleggio. Noi mandiamo un nostro autista con un nostro camioncino con il logo, avendo precedentemente fornito le secret stylist un portaabiti con il nostro logo è fortemente identificativo, ritira dalla secret stylist il fashion item, lo consegna alla secret fan, la secret fan lo usa, finito di usarlo rimandiamo l'autista che lo riprende e lo riconsegna alla secret stylist. Noi certifichiamo il capo, supervisioniamo il capo precedentemente. La credibilità della persona, la credibilità del capo diventa importante, anche perché poi ci saranno elementi di social importante, tipo TripAdvisor, dove verranno dati delle valutazioni. La secret stylist valuterà la secret fan valuterà la secret stylist, verrà valutato comunque il capo. Il tutto ha una transazione, un costo di transazione, e noi teniamo una percentuale su questa transazione. Di che cifre stiamo parlando? Facciamo un esempio per i nostri ascoltatori: un abito da sera. Il prezzo viene definito dalla secret stylist. Tendenzialmente abbiamo visto che abbiamo abiti che vanno dai 50 alle 150-200 euro, più o meno in genere è fra il 10 e il 20% del prezzo retail, ma assolutamente è totalmente definito da secret stylist. Ci sono persone che poi, come hanno visto i primi noleggi, poi sono andate a mettere descrizioni ulteriori. Quanto più si riesce a dare una descrizione che riesca a dare anche emozione legata a quell'abito, quindi magari è stato fatto in qualche contesto particolare, sicuramente questo facilita molto l'interesse da parte delle secret fan. Diciamo che per noi è un nuovo modo di vivere la moda. Abbiamo la comunità attualmente composta da circa 3.000 persone che sono in forte crescita. Quanti capi e accessori ci sono in questo momento a disposizione? In questo momento più di 1.000, ci sono molte firme esclusive. È importante anche sottolineare che è tutto ovviamente coperto da assicurazione. Siamo anche in questo momento, non è presente, ma stiamo inserendo anche un servizio di lavanderia nostro. In questo momento è a carico della secret stylist, diciamo. Siamo partiti in Italia a fine 2013, e il nostro progetto è un progetto che va oltre i confini italiani, in fondo a Parigi e Monaco a seguire. Tra poco parliamo di uno degli oggetti cult del Made in Italy, un prodotto di grande successo, è stato fotografato in mano a Hillary Clinton nell'immagine storica La notte della cattura di Osama Bin Laden, usato da Brad Pitt e molte altre celebrities, è il protagonista della riflessione sull'Italian Factor di questa settimana. Essere e avere. Adesso mi faccio un bel brodo, a prescindere, ma io me lo faccio doppio, è ovvio, no? E se vi resta ancora un dubbio? Tanto semplice provare, la minestra piace il doppio, con il doppio brodo sta. Ferrari, il vino che conserva il sapore festoso della vendemmia. Bevevano i nostri padri, vino buono in quantità. Friscola, che vino, e che magnifici regali col bollo Italia. Siamo bimbi. Come il fiore nell'acqua mantiene la sua freschezza, così Pizzaiola, nella sua nuova confezione, ha il segreto della freschezza. E con 50 punti avrete il simpatico gatto Mara Mio. Michele Lavazza, musica è... Ci siamo molto divertiti nell'andare a cercare e selezionare online questi spot. Volevamo iniziare così questo viaggio nel cibo immaginario. Questo è il nome della mostra che racconta 20 anni di vita e costume italiani attraverso l'iconografia, gli stili e i linguaggi della pubblicità e dei riti del cibo. Ne abbiamo parlato con il curatore Marco Panella. È un racconto italiano. Un racconto che corre lungo 20 anni di vita del nostro paese, che lo coglie dagli anni della ricostruzione ed arriva sino alle avvisaglie dell'austerity. È una riflessione che viaggia su molti livelli, la storia del linguaggio pubblicitario, del costume, della cultura gastronomica, dell'economia del paese attraverso appunto le abitudini di consumo che in quegli anni andavano trasformandosi. Sì, assolutamente sì, in quegli anni cambia molto il modo di mangiare, ovviamente, perché la diffusione del benessere incide sulle abitudini alimentari e sul miglioramento del mangiare. Il mangiare, soprattutto nei primi anni 50, è visto come il primo momento di affrancamento da uno stato di miseria che era molto incisivo nel paese. Il miglioramento del benessere cambia le abitudini alimentari, la pubblicità dà voce, dà spazio soprattutto al desiderio e quindi diventa uno strumento di lettura affascinante nei suoi stili, nei suoi linguaggi, nelle sue raffigurazioni iconografiche. Ci sono dei prodotti simbolo di questo racconto? Sì, oddio, ce ne sarebbero tanti. Andiamo dal dado da brodo che sostituiva la carne quando comprare un chilo di carne era molto costoso, al pollo intero che soprattutto anche questo nella parte degli anni 50 il pollo intero in pubblicità dava un'idea di benessere, di opulenza, di ricchezza alimentare. E poi il consumo del tempo libero e quindi le bibite, diciamo tutto quanto diventa un simbolo di quest'Italia che sta cercando la sua strada alla modernità. Che cosa può dire quell'Italia all'Italia di oggi? Beh, diciamo che quell'Italia era un'Italia che tra grandi difficoltà ha mantenuto la fiducia in se stessa, ha mantenuto la sua capacità di guardare al futuro, era fatta di famiglie con genitori che si rigiravano i cappotti per far studiare i figli, perché avevano la certezza che il futuro dei propri figli potesse essere migliore del loro presente. Mi sembra un messaggio di grande attualità. Tutto è energia e questo è tutto quello che esiste. Sintonizzati alla frequenza della realtà che desideri e non potrai fare a meno di ottenere quella realtà. Non c'è altra via. Questa non è filosofia, questa è fisica. Albert Einstein. Focus sui trend. Energia, la parola chiave del focus sui trend di questa settimana, complici le istanze per la valorizzazione delle risorse, la riflessione sull'energia è diventata per così dire mainstream, attraversa tutti i settori e condensa ispirazioni e declinazioni diverse, tutte riconducibili però a molti dei temi simbolo dei tempi che stiamo attraversando. E parlo di alimentazione, creatività, innovazione, connessione, condivisione, autoproduzione, solo per citarne alcuni. Dal power food agli energy drink, dai consumi culturali a quelli tecnologici, passando per le energie alternative e quelle educative. A guidarci nell'analisi ci sono come sempre i ricercatori di Future Concept Lab. Paolo Ferrarini, ben ritrovato. Buongiorno, ben ritrovati a voi. Da dove iniziamo? Beh, direi che è inevitabile partire da Expo 2015, sappiamo, insomma, se ne fa un gran parlare in questo periodo. Il tema di Expo di quest'anno è nutrire il pianeta, energia per la vita, quindi l'energia e il cibo sono i due temi centrali attorno a cui ruoteranno tutte le attività principali di Expo. Possiamo dire che anche le energie creative, le energie commerciali di tutto il pianeta in un certo qual modo stanno convergendo verso Milano.